una è quella dove ci sei tu, però vive con voi, così è, a quanto ho capito. Sì, beh certo, però le case ci sono, perché una è affittata e una è qua, che vive qua con me, no, lei vive qua, capito? Per cui più il locale, sicché tassa mondezza qua, tassa mondezza in ufficio, tassa mondezza là se la paga l'inquilino, vabbè, quello se la paga l'inquilino, però ci sono le tasse da pagare anche per quella casa lì, sicché tasse qua, tasse magazzino e tasse l'altra casa, via, a rata, 6.000 euro quest'anno di denunciare i redditi. Così è. Per non considerare che poi non ho l'esenzione, ad esempio io personalmente ce l'ho, perché ormai ho superato l'età, l'esenzione delle cure mediche eccetera, invece lei non ce li ha, mia moglie non ce li ha l'esenzione, perché il reddito è alto, per cui non me l'hanno l'esenzione, a me me l'hanno data perché io ho superato i 75 anni, capito Olu? Beh sì, non te la danno per il reddito, però te la danno per l'età. Vabbè, sempre con tutte le visite che ci sono da fare, pastiglie da pigliare, Caro Grillo, te lo credo, purtroppo è così. Tu pensa solo all'operazione che ho avuto, se la volevo fare subito volevano 4.000 euro, invece siccome non era così urgente per farla, allora ho aspettato, mi hanno messo in lista e mi hanno chiamato, però se la volevo fare subito nel giro di 10-15 giorni 4.000 euro volevano. Ho detto, ma allora ho parlato con il medico di casa, il medico di famiglia, ho fatto così e così, ho fatto guarda, tu non è che hai tutta questa necessità, chi te lo fa fare a spendere 4.000 euro per fare questa operazione? Tu prendi e aspetti, perché intanto non è assolutamente necessario accelerare le cose, assolutamente. E così ho fatto, ho seguito il consiglio del medico e ho risparmiato le 4.000 lire, le 4.000 euro, le 4.000 euro ho risparmiato, capito? Se no vuoi vogliare 4.000 euro per farmi subito l'operazione che ho avuto. Ma chi sei? Vai, lo trombone va. Sai che sei tutto sacro, sì. Perché Battisio? Oh, signor Battisio. Sì che ti ascolto, ma sei tutto sacro, sì. Tutto sacro. Oh, sempre lo stesso, non si capisce nulla. Non sei uscito. Sai Batti, se sei tu, non stai uscendo. Non da signor Batti. Ma la sei uscito, ma tutto usato così. Allora adesso appena appena deve cominciare a migliorare, ma non a sedere. Nulla, adesso non sei uscito. A tratti sei uscito. Vabbè, signor Batti. Cos'è signor Batti? Non ho capito. Già pagare tu sato lo sei, non riesco a capire. Ma te si cosa? Sempre sato lo sei, signor Bacchino, non si comprende nulla. Sempre così. Non stai uscendo, signor Bacchino. Adesso si trova sei sato. Guarda, ti compresa appena appena. Però sei sempre sato, appena appena. Prova a mettere le metiche al massimo. Lo Bacchi, stai uscendo basso basso e non si capisce nulla. Sempre basso. Cosa hai detto, signor Bacchi? Basso basso, signor Bacchi, sì. Basso basso e non si capisce nulla. Nulla, signor Bacchi. Ah, va, sei uscito ma non si comprende nulla. Sattro, ma sattro un bettero. Ma chi adesso sei basso basso? Sai che con questo microfono non esci più, signor Bacchi. Tutta, signor Bacchi, stai uscendo ma tutto sacro sacro. Capisce nulla. Tutta, signor Bacchi, non si capisce nulla. Tutto 4-7-0-7-0 più. Penso che stai migliorando, però non si comprende nulla. Sì, è migliorato appena appena, però sei basso. Lo partito si comprende nulla. Ma non c'è fuori frequenza per caso, no? Vengo adesso. Ma lo so che stai uscendo, però sei un po' basso. Ecco, però si prende nulla. Infatti, come ha caricato, mi ha fatto la visita, Ecco, se ti ti ammette, negli occhi non ne ho. Ok, io vedo lì. Adesso posso andare dallo specialista, faccio fare gli occhiali e sei a posto. Infatti, adesso mi trovo appuntamento, non lo chiamo e me la faccio male insieme a mia amica. Almeno sul destro che può guadagnare un po'. Quello che ho già si vuole bene, però c'è il problema. Vabbè, signor Bacchini, risorgionelli, io ti devo lasciare perché sono le 8. Ci risentiamo alle prossime, se coincide domani. Ok, ciao signor Bacchini, buona cena e tutto là. Ciao agli ascoltoni. Ciao a tutti, buona serata, ciao per la signora, a domani. Anche per noi arriva la parola, diciamo, quando per voi tu mi vanno a venire anch'io. Arrivato, non c'è l'appuntamento. Benissimo, buona serata anche agli amici che sono in ascolto, al mio rifiuto. Ciao signor Bacchini. Ciao a tutti, buonanotte, ciao.